Diritto di Stefano Folli. Gli episodi di intolleranza e di inqualificabile teppismo che negli ultimi giorni hanno colpito la comunità ebraica, segnando la giornata della memoria, sono già stati condannati da tutti, a cominciare dal capo dello Stato. Bisogna solo aggiungere che non sono una prerogativa italiana, basti pensare alla devastazione dei cimiteri ebraici che di tanto in tanto si ripete in Francia o in Germania. Non significa certo che la minaccia del nazismo nella sua forma storica sta tornando, vuol dire però che esiste una faccia oscura dell'Europa, e questa faccia oscura si presenta sempre come antisemitismo. Quanto più le istituzioni dell'Unione sono deboli, quanto più la crisi economica si avvita senza avere uno sbocco in una maggiore e più convinta coscienza civile europea, tanto più i fantasmi riemergono dal passato, in forme diverse, nuove ma inquietanti. I teppisti sono un'infima minoranza, ma rappresentano la punta di un iceberg da non sottovalutare. L'Europa che non scalda i cuori ed è solo spread è destinata ad alimentare essa stessa i suoi nemici.